La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci qui amici, un saluto agostano da Franco D'Assisti, questa è la Rosa Purpurea, versione estiva che non differisce moltissimo per il momento da quella invernale, ma semplicemente ha meno film in uscita, perché chiaramente forse questa è la settimana con meno uscite in tutto l'anno, anche se noi ci occuperemo già di qualcosa che sta per arrivare la prossima settimana nelle sale, perché di fatto sono i primi anticipi di stagione. Ecco, è una puntata fra saldi e anticipi di stagione questa di oggi, dove però daremo già spazio a grandi interviste che ci anticipano l'autunno cinematografico che verrà qui su Radio 24 e in tutta Italia. E allora cominciamo dai saldi, cominciamo da un film che ha un cast altisonante, un film che è uscito nelle sale due giorni fa, si intitola Nothing But The Truth. La locandina recita Kate Beckinsale, Matt Dillon, Angela Bassett, quella della serie televisiva Suit, Alan Alda, Vera Farmiga, David Schwimmer, insomma, un cast importante per un film però girato qualche anno fa. We're gonna fast track the story, your story. I wanna get it on doorsteps tomorrow. No, I know, it's Watergate. It's the wrong country. Paper will be out in 2 hours when that story comes out. E ci credono talmente tanto che la banda dell'originale è appunto quella della lingua d'origine del film, non è il trailer doppiato in italiano. È in collegamento con noi, che forse da una spiaggia, forse con una cannuccia, un cocktail, chi lo sa, Boris Sollazzo. Ciao Boris. Dal MIBAC, pensa, dal ecco, MIBAC. Che meraviglia, hai visto? Si lavora anche ad agosto, si dice tanto dello Stato italiano, invece del lavoratore pubblico, invece tu gratis, sei lì. Tra l'altro. Bravissimo, mi sembra un trionfo. Ti portiamo una fetta d'anguria. Allora, ascolta, dicevo prima, uscito qualche anno fa, un cast così, ma un film del 2008. Prima di parlarne, perché lo porta nelle sale la Notorious Pictures, ma che ci fa un thriller che tra l'altro racconta la classica storia della giornalista senza macchia, senza paura, che non si ferma davanti a niente quando nelle sue indagini finisce dentro un agente sotto copertura della CIA e lei non vuol saperne, va avanti dritta per la sua strada indefessa, e questo è un po', diciamo, il centro, il cuore narrativo del film. Dicevo, 2008, perché solo oggi? È veramente difficile da capirla questo cortocircuito della distribuzione. Cioè, l'unica cosa che viene in mente è che avessero comprato a suo tempo il film, nessuno lo avesse visto e poi nella disperazione di che cosa mettere l'8 di agosto avessero scoperto di avere un buon film in cascina, perché la cosa incredibile di Nothing But The Truth è che arriva 7 anni dopo nelle sale italiane ed è un ottimo film, certo non un capolavoro del genere, non è Tutti gli uomini del presidente, ma è un lavoro dignitosissimo nell'ambito di una rinnovata, direi, ricerca nel genere giornalistico cinematografico, no? Del giornalista eroe che in nome della libertà dell'informazione mette a repentaglio la sicurezza propria e forse anche della nazione, ma perché appunto vuole obbedire alle regole profonde del suo mestiere e anche al fatto che al mito americano, e in questo devo dire l'invidio dell'essere il cane alla guardia del sistema, e in qualche modo ci ritroviamo di fronte un lavoro molto interessante, un lavoro molto rigoroso. L'assenza di retorica è molto interessante, è molto asciutto, nonostante la presenza di un cast molto ridondante. Allora, adesso diciamo che sono un po' dei reborn, nel senso che sono rinati 7 anni dopo da noi, da appunto dalla Beckinsale, addirittura del Schwimmer, che è quel Ross di Friends che molti ricorderete. Un film corale che si incentra sulla figura di questa giornalista, e questa giornalista che racconta una storia da una parte vecchia, perché chiaramente è tutto incentrato sul fatto che dopo l'11 settembre i giornalisti sono costretti a rivelare le proprie fonti negli Stati Uniti, o in qualche modo hanno misure più restrittive che gli impediscono di proteggerle, e però il giornalista vero che fa obbedisce alle regole ataviche del proprio mestiere e non a quelle emergenziali che sono arrivate dopo il terrorismo. Ovviamente un film del 2008 ancora è molto condizionato dal 2001 e dall'attentato alle Torri Gemelle, vederlo nel 2015 è sicuramente anacronistico. Vero è che nonostante Obama non è che siamo proprio usciti da quell'incubo e da quella paranoia che i governi hanno, se basti pensare alle notizie sulle intercettazioni della CIA a grandi capi dei governi europei. Il film si porta avanti su questo thriller appunto giornalistico bellico tra virgolette, con la solita CIA che sembra essere il nemico giurato di ogni reporter, lo porta avanti con pulizia, con nettezza direi di riprese e di sceneggiatura, e porta a casa un risultato più che discreto. Insomma, fossimo a scuola sarebbe un film da 7, che non ha nulla da farsi rimproverare, che forse poteva fare un ulteriore salto di qualità per arrivare all'eccellenza, ma che comunque dà allo spettatore quello che vuole, quello che gli promette, non è poco. Assolutamente non è poco. Tra l'altro il regista nel frattempo, che appunto è Rod Lurie, che è originario di Israele, ma insomma di fatto annesso agli Stati Uniti a livello lavorativo, aveva firmato poi nel 2011, cioè 3 anni dopo questo film, un remake di Cani di Paglia, e quindi insomma, come dire, si era mosso ancora in quel mondo, forse gli piace davvero, in quel mondo del cinema degli anni 70 americano, che è un po' la matrice anche di questo film, no? Sì, c'è molto anche dei 3 giorni del Condor, è evidente. Se vogliamo trovare un difetto al film è forse il fatto che a quel modello si richiama fin troppo scopertamente. Può sembrare un film vecchio al di là del fatto che arrivi 7 anni dopo l'uscita, era un po' antiquato, un po' classico, ecco, non voglio nemmeno dire antiquato perché sarebbe ingiusto verso il film, un po' classico già nel 2008, non ha dei momenti di modernità, non cerca neanche le nuove frontiere del giornalismo né le nuove frontiere del cinema, è molto schematico, riprende quei grandi classici da Pollack in poi, però funziona forse proprio per questo, proprio perché il modulo è quello giusto, insomma. E allora, Nothing But The Truth, chiaramente il film in termini proprio di impatto anche degli attori più importante di questa asfittica settimana sotto il profilo distributivo, però insomma per un paio d'ore fresche all'aria condizionata del cinema può essere un thriller interessante, un thriller politico diciamo così interessante. Adesso prima di passare ai prossimi film, come vi dicevo faremo anche un salto in avanti nel tempo, cioè sulla prossima settimana con le prime anticipazioni della nuova stagione, facciamoci raccontare dal nostro ormai esperto Giancarlo Placerani il film della settimana di Yasushiro Ozu. Stiamo ripercorrendo settimana per settimana i 6 capolavori restaurati di questo maestro assoluto del cinema giapponese e internazionale che la Tucker Film ha redistribuito in queste settimane in tutta Italia. Oggi tocca a Tarda Primavera. Tarda Primavera è la storia di un anziano professore che desidera che la figlia si sposi. La figlia è vedovo. La figlia non vuole sposarsi per non lasciar solo il genitore. È importante dire che questa situazione, che rappresenta anche un confronto fra i giovani e i vecchi nel nuovo Giappone del dopoguerra, perché il film è del 49, è la situazione base di Ozu nel suo ultimo periodo di vita e di lavoro, perché viene ripresa in diversi film. Grazie a Giorgio Placereani. A questo punto noi diamo la linea alla viabilità, sentiamo come vanno le cose sulle strade, weekend piuttosto intenso per quanto riguarda i vacanzieri, torniamo fra poco e parliamo di un altro film uscito solo un paio di giorni fa che si intitola Joe. La rosa purpurea. Eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea, è il momento di parlare di Joker, il secondo film di questa settimana uscito appunto nelle sale, Joker Wild Card per il titolo completo. Protagonista è Jason Statham e insomma chi ama l'azione sa di che attore si tratti, un action thriller che racconta la storia di un giocatore d'azzardo che sta cercando di cambiare vita e prova a proteggere persone che come lui sono coinvolte in quel difficile mondo appunto del gioco d'azzardo, però quando una sua amica viene brutalmente pestata il suo, come dire, approccio e atteggiamento rispetto al mondo da cui proviene cambia improvvisamente. Mi servono $500,000 per comprare 5 anni di libertà. È il mio sogno da sempre. Me ne mancano 499.500. Chi è stato? Non lo so, erano in tre. Voglio vendetta, Nick. Qualcuno si è introdotto nella stanza 506 e ha pestato tre uomini. Stanno venendo a cercarti. Da un momento all'altro sarò morto. Morto? E quando? Adesso. Tu sei un tipo violento, vero? Non violento. Però so esserlo. Beh, insomma, una di quelle battute che si ricordano, no? Jason Statham è effettivamente un pochino violento, almeno al cinema lo è. Raccontaci questo Wild Card Joker, film, diciamo, di azione bella, bella piena, insomma, no? Allora, parlavamo prima di un film vecchio di 7 anni, questo film l'avete già visto qualche centinaio di volte negli ultimi 7 anni, non solo fatto da Jason Statham, ma in generale, perché chiaramente c'è qualcuno che deve ricostruirsi una vita, il cui passato torna a ricattarlo, lui stesso vuole farsi ricattare da quel passato perché vuole in qualche modo avere un risarcimento anche da quel boss che lo ha rovinato, ma il punto è che c'è Jason Statham, cioè ciò che sarebbe un film normalissimo, anche mediocre se non ci fosse questa che è diventata ormai un'icona, un personaggio con una vita pazzesca, almeno 3 vite, insomma, nazionale di tuffi, poi esperto di arti marziali, in particolare di kickboxing, infine attore, grazie in particolare a Guy Ritchie, attore straordinario secondo me perché è riuscito a costruire su una faccia, perché è appassionato di calcio, molto simile a quella di Pepe Reina, il portiere del Napoli, su una faccia da proletario britannico, un'icona di simpatia e allo stesso tempo durezza, che ha avuto una straordinaria efficacia, pensiamo a Crank e pensiamo pure al recentissimo Spy. Joker entra nel filone dei suoi film insomma gamba tesa, perché c'è tutto Jason Statham in Joker, c'è il duro che ha un cuore tenero ben corazzato, che fa delle battute che appunto ricorderete, no? Vi segnerete sul vostro diario per ripeterle magari la sera con gli amici. Forse è il difetto rispetto a Spy, che è uscito pure quest'estate, di non giocare troppo sulla naturale comicità di Jason Statham, una comicità che ha conquistato anche illustri colleghi come quella di Jude Law. Qui si insiste forse sui precedenti talenti di Jason Statham, cioè quelli che lo volevano appunto come duro e puro, come smaliziato vendicatore, e questo è forse l'unico difetto di Joker. E la verità è però che parlavamo prima di film che promettono e poi mantengono. Joker è esattamente quello che uno vorrebbe da un film di Jason Statham, e probabilmente per l'8 agosto è perfetto, perché vai a colpo sicuro a divertirti con quello che è un thriller fatto di botte, di avvenimenti e di scene madri, di battute al fulmicrotone e allo stesso tempo abbastanza telefonate, cioè le potete anticipare senza nessun problema, però mettendosi abilmente sulle spalle di questo attore che ormai è esperto e questi ruoli li fa ad occhi chiusi, porta a casa la pagnotta in maniera molto molto dignitosa. Quindi l'avete già visto tante altre volte, però probabilmente è un po' meglio della media di questo genere di film. Si può rivedere. E tra l'altro ricordiamo anche appunto Stanley Tucci e Sofia Vergara nel cast, uno per la bravura, l'altra anche diciamo per l'avvenenza, e comunque sia completa. Qui è da infarto. ecco, no, ma Sofia Vergara veramente non plus ultra sotto questo profilo. Ma torniamo al cinema. Per raccontare un altro film, e qui ci spostiamo già in avanti di qualche giorno, Boris, perché come dicevo questa settimana è piuttosto asfittica, però la settimana prossima è altrettanto asfittica, ma i film non sono più saldi di stagione, ma sono anticipi di stagione, sono qualcosa che appartiene già, diciamo, a livello intellettuale alla nuova stagione cinematografica, al 2015-2016, sicuramente Ant-Man, ma altrettanto anche questo Vacation, in italiano tradotto in Come ti rovino le vacanze, che è un remake di una mitica, storica saga che era National Lampoon Vacation. Facciamo una vita monotona. Dobbiamo darle una scossa. Andremo a Hollywood. Vorresti rifare una vacanza che hai fatto 30 anni fa? Sarà totalmente diversa. Voi siete i Griswold, vero? Sì. Sono qui per rispondere a ogni tua domanda. Cos'è un anellingus? Questo viaggio è quello che ci serviva. Non capisco perché vuoi tornare a Hollywood. Sorgente termale. È magnifica. La chiameremo la sorgente Griswold. Non mi sembra una sorgente termale. Vattene fuori dalla sorgente Griswold. Una famiglia, Ed Helms, Christina Applegate, eccetera, eccetera, ma anche Chevy Chase, che è l'uomo simbolo, diciamo, della saga originale di National Lampoon, parte per un viaggio verso un parco divertimenti americano, una sorta di sorpresa che il papà fa alla moglie e ai due figli. Insomma, le cose presto si capiranno, andranno nella maniera sperata, il tutto chiaramente in salsa di commedia, come fu quella commedia che però aveva Boris in quegli anni, quel pizzico, quella scintilla di follia che aveva fatto di quella saga non solo un grande successo internazionale, ricorderete forse anche la versione natalizia National Lampoon's Christmas Vacation, ma ne aveva fatto anche una sorta di caposaldo di un tipo di commedia che era molto molto anni 80. Sì, allora si inseriva National Lampoon in quel filone di ingenuità demenziale e folle che funzionava tantissimo negli anni Ottanta, ingenuità soprattutto a livello visivo e narrativo, non c'era bisogno di costruire chissà quali strutture comiche per poi far ridere, unito a soluzioni che andavano oltre il buon senso, come spesso accade nelle commedie, e che portava alla risata, allo stesso tempo facile, ma non così facile da costruire, proprio perché insomma apparentemente le soluzioni sembravano scontate. Era qualcosa che negli anni Ottanta andava benissimo, veniva anche da eredità pesanti della fine degli anni Settanta, dalla volontà di costruire su determinati attori determinate facce delle commedie corali che funzionassero per grazie anche a ottime scritture, soprattutto nei dialoghi e nelle scene. In Vacation tutto questo dà il sapore della rimpatriata, nel senso che siamo 30 anni dopo e in qualche modo si cerca di fare un mix, un matrimonio che è molto difficile da costruire. Qual è questo matrimonio? Tra quei modelli che erano modelli efficaci, ma non erano i migliori dell'epoca, allora, e quelli, non è un caso che insomma i produttori siano gli stessi di Notte da Leoni in particolare, e qui c'è anche probabilmente il motivo per cui troviamo Ed Helms nel cast. La verità è che poi non si riesce però a costruire né l'una né l'altra cosa, non si ha il sapore della rimpatriata se non nell'avere l'impressione di un già visto, e non si ha nemmeno però il coraggio completamente folle, completamente fuori dagli schemi delle Notti da Leoni a cui siamo stati abituati, perché comunque il film è costruito per essere, non dico un family movie, ma qualcosa che possa essere sopportabile alla visione, anzi più che sopportabile, gradevole alla visione per una famiglia. E certo Notte da Leoni, se ve lo ricordate bene, difficilmente può essere un film da guardare in famiglia, insomma, se sì, non ci porti il bambino di 7 anni, diciamo così. E quindi appunto il problema è quello, che non riesci a credere né all'una né all'altra cosa, forse anche per lo scarso carisma degli attori, perché sia Ed Helms che Christina Applegate non hanno quel carisma che avevano, ora ci vuole, i Chevy Chase o gli altri protagonisti della saga. E allora questo è Vacation, come ti rovino le vacanze, con Chevy Chase tra gli altri, insomma attore simbolo di quella irripetibile stagione, che appunto qui ha anche un ruolo un po' più defilato in questo family movie che fa parte di questo, di questa apertura di stagione. Dal 12 di agosto lo trovate al cinema, così come dal 12 di agosto troverete al cinema Ant-Man, e questo sì che è il grosso botto di inizio stagione anche per quanto riguarda il botteghino, l'ennesimo eroe Marvel che arriva sul grande schermo. Ne parliamo fra La Rosa Purpurea. Eccoci qua, la Rosa Purpurea prosegue come promesso con i primi anticipi di stagione 2015-2016, perché la prossima settimana con le uscite, con le due uscite del 12 agosto, di fatto non solo ci si mette a un ferragosto di cinema di un certo tipo, ma anche arrivano i primi film pesanti della nuova stagione. E si parte col botto, si parte con la Marvel, si parte con la Disney, quindi con quei film che di solito popolano anche in termini di incasso al botteghino la stagione cinematografica. Stavolta l'eroe è un eroe, come dire, non dico per caso, però è un eroe meno noto. Parliamo di Ant-Man, l'uomo formica, che Disney e Marvel hanno tirato fuori proprio per questa stagione, anche un po' per farlo conoscere per quanto riguarda almeno l'Italia, perché è uno di quei supereroi di quel giro Marvel che è rimasto sempre un po' più defilato, anche se nel film ci sono parecchi riferimenti anche alla grande famiglia degli Avengers, tanto per intenderci. Paul Rudd è il protagonista, Evangeline Lilly è la sua spasimante o anche un po' in certi momenti avversaria, Michael Douglas un po' il patron di questa azienda, che ha trovato il modo di rimpicciolire tutto quello che si può e di farlo diventare un'arma davvero impropria. Immaginate un soldato grande quanto un insetto. Se tutti avessero i poteri di un dio, sarebbe il caos. Sei pronto a diventare un eroe? L'armatura ha dei poteri. Quando sei rimpicciolito, hai una forza sovrumana. Impariamo come si dà un pugno. Mi insegni a dare un pugno? Fammi vedere come... Così si dà un pugno. Pensavi di poter fermare il futuro? Sei solo un ladro! No, io sono Ant-Man. E allora le cose vanno come vanno in questi film di solito, cioè la tecnologia l'ha trovata un uomo che, come dire, la voleva usare per fini sicuramente militari, ma insomma dalla parte giusta della barricata, l'ha rubata, l'ha sviluppata, l'ha cambiata e la sta per vendere al cattivo, invece un uomo senza scrupoli. Ant-Man ovviamente diventa Ant-Man perché è in realtà un papà che sta cercando di rivedere il più possibile la figlia, visto che è divorziato e non riesce a vederla abbastanza. Motivato da questa possibilità, anche dall'essere qualcuno agli occhi della bambina, insomma, si tuffa in questa avventura e ci regala un film di grande semplicità strutturale, di grande semplicità narrativa. Lo si può seguire un po' a tutte le età, quindi quasi un family movie Marvel, se vogliamo. Non ci sono le profondità, non ci sono le introspezioni di tanti altri supereroi, però è un film molto godibile, molto fresco, che ci porta nel mondo dell'immensamente piccolo, come già avevano fatto anche altri film. Pensate a quello che succedeva, mi vengono in mente Toy Story, mi viene in mente anche Una notte al museo, cioè quando quello che veramente piccolo diventa imprevedibile proprio per le sue dimensioni. Boris, comincia la stagione con Ant-Man. Che tipo di potenzialità ha questo film in Italia, dove questo personaggio è meno conosciuto di altri? Dipenderà molto dalla forza del passaparola, perché sono pienamente d'accordo con tutto quello che hai detto e mi sembra una recensione assolutamente perfetta, perché se vogliamo Ant-Man è la dimostrazione di quanto la ricetta Marvel, sia nei fumetti che nel cinema, sia assolutamente perfetta proprio nella sua semplicità. Un uomo o una donna che incontrano un superpotere per caso, ne vengono investiti spesso loro malgrado, intuiscono le super opportunità che ci sono dietro e poi, quando è troppo tardi, capiscono anche i super problemi che arriveranno e dovranno farci conti per tutto il resto della vita. Ant-Man era un personaggio interessantissimo per i fumettari. Ant-Man è un supereroe antipatico, chiuso, non ha l'epica di altri personaggi né l'etica di altri personaggi, non ha neanche l'estetica, perché comunque un supereroe che diventa infinitamente piccolo non è così affascinante come Capitan America o Iron Man. Quindi era già un supereroe, volendo usare un gergo proprio non cinematografico, sfigato, un supereroe per nerd, un supereroe che comunque deve fare i conti con lo scarso fascino che può avere il suo superpotere. La verità è che la sfida che accettano nel film a livello visivo, cioè quello di raccontarci l'infinitamente piccolo attraverso un grande schermo, che può sembrare un paradosso, che può sembrare una contraddizione, ma invece è straordinariamente efficace, forse non ce l'hanno nella sceneggiatura. Ovvero, la ricetta Marvel è così efficace, così potente e si basta così tanto da sola che si perdono per strada quelle sfaccettature, quelle sfumature che rendevano Ant-Man un supereroe molto diverso e rendono Ant-Man un supereroe molto diverso nell'universo Marvel. È vero anche che questa saga a strati, sostanzialmente questa saga che si sviluppa sia in verticale che in orizzontale, necessita, come dici tu, di una presentazione, cioè di raccontare al mondo chi sono i supereroi che non sono entrati nell'immaginario collettivo ma che esistono in quell'universo e che compongono quell'universo. E quindi questa esigenza di presentazione fa sì che l'approfondimento può essere più scarso. Di contro, probabilmente questa assenza di profondità, come dici tu, rende il tutto più fresco, rende il tutto più immediato, rende tutto più divertente e godibile, e questo sicuramente è efficace perché ci sono tutta una serie di racconti, di narrazioni che sono estremamente essenziali ma che ci permettono di entrare nella storia molto molto facilmente. C'è da dire che all'interno di questo universo Marvel noi vediamo arrivare Paul Rudd, che è uno straordinario attore, capace forse lui di dare quelle sfumature senza neanche accorgersene, perché è un attore straordinariamente bravo sia nella commedia sia nel coté malinconico. È una bella sorpresa Michael Douglas, che sembrava ormai in una pensione dorata e invece è molto molto efficace. Si recupera Evangeline Lilly. C'è solo forse un problema, che però non riguarda Ant-Man ma riguarda più l'universo Marvel. L'universo Marvel è talmente attento adesso a presentare i propri Avengers che sta perdendo una delle sue caratteristiche principali, l'efficacia e la forza dei cattivi. Anche qui, come negli ultimi film, manca un villain degno di questo nome e in qualche modo mutila il film, e tutto questo è recuperato poi appunto da Paul Rudd, da Ant-Man, che comunque soddisfa la nostra curiosità. Il tutto sta, sembra brutto dirlo, di un prodotto artistico, nelle strategie di marketing, appunto nel passaparola. Certo. Da noi Ant è molto poco conosciuto, quindi non ha quell'abbrivio che potrebbe avere un Iron Man, ma nel momento in cui i primi spettatori andranno a vedere Ant-Man, sono convinto che convinceranno altri ad certo. andarlo a vedere, e quindi potrebbe avere un ottimo risultato. Un ottimo risultato, e poi forse proprio per questo la Disney lo piazza in questo weekend pre-ferragostano. Noi ne abbiamo parlato, Chiara Pizzimenti per noi a Riccione durante le giornate del cinema ne ha parlato con Davide Romani della Disney, perché l'uscita in questa data e poi anche qualche anticipazione sul Big Bang della prossima stagione cinematografica, ovvero Star Wars. Sì, a metà del mese, perché è un titolo su cui comunque ci puntiamo, ci crediamo, e quindi pensavamo che potesse essere anche il titolo giusto per provare un'uscita estiva, quindi un'uscita appunto il 12 di agosto. Un'uscita estiva che in Italia sembra sempre difficile, negli ultimi anni è stato difficile, cerchiamo di andare contro questo. Assolutamente sì, ci proviamo e vediamo appunto anche qua se il mercato poi è interessato e risponde bene anche a queste uscite. La seconda uscita è Inside Out, abbiamo visto i primi 10 minuti qua, commoventi, bellissimi, a Cannes è piaciuto moltissimo. Quanto puntate su questo film, in che modo lo volete portare? Allora, ci puntiamo tantissimo e ci crediamo tantissimo. Come hai detto tu, il film è stato acclamato dalla critica Cannes, qualcuno l'ha definito addirittura un capolavoro, quindi, ed effettivamente Pixar è tornata con l'idea geniale, quindi queste 5 emozioni all'interno della testa che guidano in realtà il tuo comportamento di tutti i giorni. Ci crediamo tantissimo, abbiamo tutta una serie di eventi, ovviamente anche qua tutti ben cadenzati, che arriveranno e ci accompagneranno fino all'uscita del film. E per questo film abbiamo inventato, ci siamo inventati questo web talent show, appunto un talent show che l'abbiamo portato sul web e per il quale abbiamo arruolato 5 coach d'eccezione, proprio forti anche qua sul web, quindi Frank Matano, Diana il Bufalo, Tess Masazza, Dexter e Ludovica Comello. Ed è quello che ci accompagnerà per tutta l'estate, quindi speriamo che diventi proprio il tormentone dell'estate. Il successivo è The Good Dinosaur, un altro Pixar. Un altro Pixar, quest'anno è il primo anno che abbiamo 2 film Pixar, soprattutto all'interno dello stesso semestre. Un film completamente diverso, perché qua in realtà è un'avventura. È un'avventura ed è un viaggio di crescita e fisica e personale, caratteriale di questo dinosauro, appunto Arlo. Infine, l'attesa. Star Wars, che esce a Natale tutti quelli con cui abbiamo parlato in queste giornate a Riccione dicono: ah, usciamo insieme a guerre stellari. Come esce questa Guerre Stellari? Quali sono i numeri? Una potenza di fuoco notevole, immaginiamo. Assolutamente sì, e come hai detto tu, è il film per noi, è il film evento ed è l'evento dell'anno. Star Wars, Il risveglio della forza, super atteso, devo dire, da parte del mercato, da parte dei fan, ma devo dire da parte di tutti. E ovviamente, che dire, c'è da dire poco sul film. A livello di supporto ci stiamo mettendo tutto quello che potevamo metterci come company, quindi tutta l'azienda ci sta supportando creando eventi, come abbiamo visto il May the 4th, Celebration, di tutto di più, quindi canali TV, Disney Store, tutti si stanno impegnando per supportarci, per spianarci un po' la strada, anche ad aiutarci. Ci sono già dei numeri su questo, tutto quello che state facendo, e anche ipotesi di numeri sull'uscita, le sale, il... Allora, ipotesi sull'uscita non ne diamo, ovviamente, ma devo dire un po' anche per scaramanzia, quindi non azzardo mai numeri in questo senso, anche all'interno siamo sempre molto attenti. No, però l'attesa sta veramente crescendo, quello che stiamo vedendo anche a livello di, diciamo così, di persone di ingaggio con il pubblico sta crescendo e sta diventando sempre più ampio, e spazia soprattutto quello che speravamo e ci aspettavamo in termini di età. Era la mia successiva domanda, cioè si va dai 5 ai 500? Assolutamente sì, e in questo caso devo dire grazie anche all'azienda, quindi il fatto di avere comunque il prodotto sui nostri canali televisivi, il fatto comunque di avere partner e prodotti anche qua dedicati ai bambini, fanno avvicinare il pubblico piccolo a questo, oltre ovviamente al core target un po' più adulto. Ed è un film anche per un pubblico più piccolo? Assolutamente sì, come devo dire, questo sono un po' tutti Lucas, nel senso che in questo si avvicina molto al mondo Disney come valori e come modo di produrre. E questo era Davide Romani della Disney su Ant-Man e sulle strategie future del marchio Disney, appunto, per la prossima stagione cinematografica. Boris, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo dopo Ferragosto. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora linea di nuovo alla viabilità, fra poco torniamo insieme alla Rosa Purpurea per parlare del Festival di Locarno, che è cominciato da pochi giorni, che sta dando veramente il meglio di sé in queste ore proprio, e poi sarà con noi Christian De Sica per raccontarci Vacanze di Natale ai Caraibi, torna il Cinepanettone nella prossima stagione, restate con noi. La Rosa Purpurea. Ed eccoci ancora qui alla Rosa Purpurea, abbiamo promesso Festival di Locarno in svolgimento da qualche giorno, un po' nel cuore del suo svolgimento, perché molto spesso nei festival, insomma, il weekend è il momento di massima esplosione, però Locarno è capace anche di mischiare le carte lungo tutti i suoi 10 giorni circa di durata, 11 per la precisione. Per esempio è già passato Edward Norton a Locarno, uno degli ospiti d'onore di questo festival, nel quale sembra incredibile ma si può parlare liberamente con i grandi protagonisti del cinema anche americano. Qualche anno fa è capitato per esempio con Harrison Ford, tanto per fare appunto un nome, ma Locarno è chiaramente sempre concorso di quelli anche con registi già molto affermati quest'anno, penso ad Andrei Zulawski, è retrospettive sempre fantastiche, è un ospite che quest'anno spacca, come dicono quelli che sono un po' più giovani di me, ovvero Michael Cimino. Per parlare di tutto questo è con noi Carlo Chatrian, che è il direttore del Festival di Locarno e che saluto. Ciao Carlo e ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Buongiorno, un saluto a tutti. Allora Carlo, partiamo da Cimino, dai, perché mancano due giorni, cioè domenica è il giorno di Michael Cimino, è il giorno in cui questo gigante del cinema di tutti i tempi, che si dà anche con una certa parsimonia, dobbiamo dire, non è che si veda in giro molto spesso, arriva a Locarno a incontrare il pubblico. Penso veramente, questo lo dico da cinefilo, è almeno personalmente una delle cose più emozionanti che possa capitare. Io ho avuto la fortuna di intervistare Michael Cimino qualche anno fa a Torino, al Torino Film Festival, ed è stata veramente una sorta di lezione di cinema praticamente quell'intervista, e quindi davvero ritroviamo e possiamo saggiare, grazie al Festival di Locarno, un regista che ci ha regalato alcuni capolavori straordinari. Sì, è un po' come dici te, anche per me i film di Michael Cimino hanno punteggiato la mia vita di spettatore, ancora mi accompagnano e quindi c'è innanzitutto questo piacere, spero non solo egoistico, di accoglierlo e di vedere insieme a lui, di far vedere insieme a lui i film. Tra l'altro ci ha tenuto a presentare tutti i film che abbiamo scelto, sono 4 della sua filmografia, che non è molto estesa ma è davvero molto densa, e quindi soprattutto penso al Cacciatore, che proprio domenica sera faremo vedere in Piazza Grande, un film anche molto violento, molto duro, ma anche di una, rivisto oggi, di una nostalgia, di una poesia toccante. E, beh, come dici te, è un piacere, anche perché il Festival di Locarno ha questo rapporto, questo dialogo, io lo chiamo, tra il presente, a volte il futuro, quello che sarà il futuro e il passato, e per me è qui un po' il cuore del festival, cioè permettere agli spettatori di vedere appunto com'era il cinema negli anni 70 e poi magari vedere dei film che guardano al futuro, perché da questo dialogo si capisce anche meglio che direzioni sta prendendo e anche come è cambiato il mondo, perché poi il cinema è sempre uno specchio dell'uomo e del mondo. Ecco, restiamo un attimo su Cimino, hai detto 4 film, Il Cacciatore ovviamente, ci dici anche quali sono gli altri 3 che avete scelto? Sì, in realtà una credo che il titolo italiano sia una calibro 20 per l'ispettore Callaghan, se non mi sbaglio, comunque Thunderbolt and Lightfoot, il suo primo film con Clint Eastwood e un giovanissimo Jeff Bridges, e poi appunto Il Cacciatore di cui abbiamo parlato, Heaven's Gate nella versione ovviamente lunga, quella voluta da lui e non quella massacrata dalla produzione, e poi L'Anno del Dragone. Questi sono i 4 film che Cimino ha chiesto che venissero mostrati, soprattutto ha chiesto che di presentare. E poi, come hai detto tu, il lunedì ci sarà modo di incontrare Michael Cimino in una conversazione che sarà senza dubbio uno dei momenti forti del festival, perché come tutti sanno Cimino è una persona di una cultura enorme, formato nella tradizione americana, ma anche come il suo grande maestro Minnelli, un grande esperto per esempio di pittura, e nei suoi film insomma questo si vede. Ecco Carlo, una precisazione e una domanda. La precisazione è una calibro 20 per lo specialista, sono andato a rivedere anch'io perché a memoria dal titolo originale non me lo ricordavo il film che farete vedere, ma soprattutto non c'è, mi pare di capire, I Cancelli del Cielo. Heaven's Gate, I Cancelli del Cielo, sì. Ah, c'è. Io gli dico mi ero distratto, però pensavo già che peccato sarebbe stato non poterlo vedere nello splendore, insomma, delle dimensioni degli schermi di Locarno, perché quello è un film che sarà vero che ha un po' decretato poi in quel momento la caduta di Michael Cimino, perché fu un flop sotto il profilo commerciale, era un film che era costato tantissimo, però è vero che a rivederlo oggi è un film che ti fa vedere la pelle d'oca dal primo minuto all'ultimo. Assolutamente, sono 220 minuti, quindi abbastanza una pelle d'oca per tante ore. No, è un film che ha fatto fallire a quell'epoca la United Picture, però è un film che è rimasto e che ancora oggi la gente considera un vero e proprio cult, cioè uno di quei film che segnano, che danno un'impronta a fuoco alla storia del cinema, e penso appunto uno dei compiti del festival sia anche recuperarli, rifarli vedere, soprattutto come dicevo farli dialogare con altri film. Poi una cosa molto interessante di Cimino, almeno quest'anno, è che dialoga per me in modo molto stretto con l'altro ospite che non è presente perché è mancato ormai da diversi anni, però è l'ospite della retrospettiva di quest'anno, che è Sam Peckinpah, perché entrambi sono in qualche modo dei narratori dell'America con uno sguardo critico e al tempo stesso pieno d'affetto. Ecco Carlo, dicevo anche il concorso ovviamente per quanto riguarda Locarno, sempre interessante, originariamente opere prime e seconde, insomma cinema che doveva lanciare giovani registi, però ultimamente è un concorso che cerca la qualità anche dove il regista magari è già fermato, è il caso per esempio quest'anno di Andrei Zulawski. Sì, il concorso ormai da qualche anno, da una decina d'anni, mescola l'esordiente o comunque l'emergente all'attore consolidato. Per me è molto importante perché anche qui dallo scambio si mettono le cose in prospettiva, quindi Zulawski non faceva film da tanto tempo, qui arriva con un'opera completamente, io dico straordinaria, perché fuori dall'ordinario, perché si confronta con Gombrowicz, che è uno degli autori più difficili da raccontare per quell'invenzione linguistica che ha, e lo fa con uno stile che è veramente qualcosa che sta al di fuori dalle cose che si vedono di norma. Ma penso anche magari a Chantal Akerman, che arriva con un film che mostreremo lunedì, toccante, perché chiude il suo rapporto con sua madre, un rapporto che ha segnato tanti film di finzione documentari. E poi dei cineasti emergenti, penso ecco sono molto contento di avere quest'anno in concorso la nuova opera di Pietro Marcello, che per me è uno dei cineasti italiani più interessanti. Ecco, e proprio sull'Italia, tra concorso e fuori concorso, c'è una pattuglia di registi che raccontano il cinema stando un po' ai margini della finzione, mescolando finzione e documentario. Penso ad Andrea Segre, penso ad Alberto Fasullo, che col suo precedente tir aveva vinto Roma, e penso a due registi magari meno noti ma altrettanto coerenti e originali, che sono Martina Parenti e Massimo D'Adolfi, che in cui abbiamo aperto una sezione un po' particolare di nicchia che si chiama Sign of Life, e il loro sguardo sul Duomo di Milano è una delle cose penso più interessanti che abbiamo fatto vedere quest'anno. E allora tanta Italia anche al Festival di Locarno fino al 15 agosto. Grazie caro Chatrian, buon lavoro, e ti ridiamo anima e core alla Piazza Grande e al Palazzo della Sopracenerina, sede del Festival di Locarno, per il tuo lavoro fervente in queste ore. Grazie a voi, buona continuazione. E allora, Festival di Locarno che ribolle, che lancia la stagione insieme ad Ant-Man, come abbiamo sentito prima, insomma tanti anticipi di stagione in questa puntata, tra i quali anche qualcosa sui film che vedremo, e perché poi sarà un po' il nostro fil rouge anche nelle prossime puntate, i film che vedremo nella prossima stagione italiana. E come non dedicarsi al cinepanettone, amato, odiato, visto, non visto, rivisto, ripudiato, rinnegato a un certo punto e adesso ritornato in auge, perché insomma squadra che vince non si cambia, e pare che ancora le vacanze di Natale vincano. Il prossimo sarà Vacanze di Natale ai Caraibi, esce il 16 dicembre, avrà per protagonista Christian De Sica. Cinepanettone, morto, risuscitato, sempre vivo? Sempre vivo, non è mai morto, lo vogliono far morire, ma siamo duri a morire. Io sono stato molto contento quando Giannanni, Brizzi, Martani e Neri Parenti mi hanno chiamato a fare questo film. Era 2 anni che non facevo più il film di Natale, ho fatto Il principe abusivo con Siani e poi la scuola più bella del mondo con Rocco Papagallo l'anno scorso. Sono stati dei film di grande successo, ma erano usciti tutti e due fuori dal periodo natalizio, e ho detto agli sceneggiatori: mi raccomando, però non facciamo una commedia in punta di forchetta, ma schiacciate l'acceleratore sulla comicità, perché il film di Natale deve essere molto comico. Hanno esaudito questo mio desiderio, perché la sceneggiatura che è venuta fuori fa ridere veramente tanto. Sono 3 storie incrociate, insieme a me e a Massimo Ghinici e Angela Finocchiaro. Facciamo un episodio fatto da Ilaria Spada e Luca Argentero, e un altro episodio fatto da Dario Bandiera, però non sono episodi separati ma si incrociano tra di loro, come erano i vecchi film di Natale. Siamo tornati a quella dei Caraibi, quindi è tutto, bisogna vedere come la prenderà il pubblico, ma io prendo molto bene, credo molto bene, perché a me ha fatto molto ridere soltanto a leggerlo. La differenza la fa la risata in un film di Natale come questo? Assolutamente, perché magari drammaturgicamente non sarà questo capolavoro, però quei 10 minuti di grande comicità ci devono essere, e penso che questa volta li abbia azzeccati. Anche la location, i Caraibi, è una voglia di fuga in qualche modo? Sì, perché voglio dire, è un momento di festa, di divertimento, di gioia, un film... Non c'ha messaggi, è come un pasticcino che tu lo devi vendere, quindi se si vende funziona. Il suo personaggio è quello di un... Veramente sono andato avanti con gli anni, non c'ho più le amanti, i tradimenti, le cose, ma sono un padre di famiglia, mascalzone, pieno di debiti, che vuole portare via la casa alla figlia, perché così incrocia un altro personaggio che lui crede miliardario, invece è un altro morto di fame come me, e quindi puoi immaginare quello che succede. È un'evoluzione dei personaggi o è il mondo attorno a loro che cambia? Cioè è sempre quello che invecchia in qualche... Gli anni sono sempre gli stessi, è il paese che cambia, quindi... anche i personaggi si adattano al momento, capito? Chiaramente non c'è più quell'ottimismo degli anni Ottanta, però c'è sempre una voglia di divertirsi, di improvvisare, di fantasia, che è tipica del nostro cinema. Ci sono dei pilastri del cinepanettone, lei, Ghini, quelli che ne hanno fatti tanti, ma ci sono anche delle new entry. A Christian De Sica, del nuovo cinema italiano, dei nuovi attori, chi piace? Con chi le piacerebbe lavorare? Ma intanto mi piacerebbe lavorare con mio cognato, che non è una new entry, è Carlo Verdone, che sono tanti anni che lo diciamo e non lo facciamo mai. E poi lavorare con quelli giovani, anche in questo film c'è Ilaria Spada, Luca Argentero, Dario Bandiera, che sono giovanissimi, e quindi sono una bella frustata di vitalità. Stimo molto Edoardo Leo, che aveva lavorato con me in una fiction che si chiamava Lo Zio d'America quando era ragazzino, e poi stimo molto Marco Giallini e così tanti altri, Favino, insomma sono dei bravissimi attori. Anche registi, Brizzi ha detto: mi piacerebbe una volta fare il regista per De Sica. Non è capitato, fa lo sceneggiatore? Capiterà, spero, io me lo auguro. Christian De Sica al microfono di Chiara Pizzimenti per La Rosa Purpurea su Vacanze di Natale ai Caraibi. E allora abbiamo coinvolto, la nostra Chiara ha coinvolto anche il patron, quello che dietro la macchina da presa ha un po' firmato questa stagione, Neri Parenti, il regista di Vacanze di Natale ai Caraibi. Il cinepanettone è morto, vive il cinepanettone, è un film che fa ridere molto? Vuol dire non solo che fa ridere molto, ma vuol dire ambientazione esotica, vacanza, Natale, Sicilia e Caraibi, quindi belle immagini, e ci sa, sicuramente si è spinto molto più sull'acceleratore della comicità, della farsa, di qualche volta magari essendo anche un po' fuori dalle regole, diciamo, cosa di cui siamo stati accusati, però rimanendo nell'ambito della decenza. Però insomma, io sono molto contento, mi sembra che il film faccia molto molto ridere, e questo per me è una discriminante assolutamente importante. È il punto fondamentale per un film in uscita a Natale, in un Natale abbastanza difficile tra l'altro, c'è anche Guerre Stellari che esce a Natale, sono due generi diversi. Sì, sì, lo so, d'altra parte io oramai sono 30 anni che ho sta croce, qualche volta va bene, qualche volta va peggio, va meglio, però dipende molto dal film, perché anche, voglio dire, quando tu giustamente dici sono generi diversi, poi quel genere diverso deve funzionare, perché se uno vuole, sa che se va a vedere Natale ai Caraibi, se c'è un buon passaparola, sa che riderà moltissimo, se va a vedere Guerre Stellari cercherà probabilmente qualche altra cosa. Avete i classici, De Sica, Ghini, ma anche delle new entry, persone, attori che non avevano mai fatto questo genere di film. Sì, abbiamo De Sica, Ghini e Angela Finocchiaro che fa la moglie di Christian. Poi abbiamo due giovani e belli che sono Luca Argentero e Ilaria Spada, e una persona che invece già ha fatto un film con noi che è Dario Bandiera. Sono storie intrecciate? Sono storie intrecciate che si sfiorano, poi a un certo punto ognuno va per la sua strada. Lei ha girato un'infinità di film anche di generi diversi, c'è un film sogno che le piacerebbe, il film che non ha fatto ancora? Indiana Jones. Oh là là, Indiana Jones, avventura! Sì, io sono un patito dell'avventura, però mi piace l'avventura Indiana Jones all'inseguimento della pietra verde, cioè quel con un po' anche di cose buffe, con un po' anche di ironia. Cioè, un po' di comicità che non manca. Sì, ironia più che comicità, però è un genere che in Italia è assolutamente impraticabile, sia per i costi, sia per... Forse anche gli attori, proprio non ci sono tanti attori che potrebbero fare quel ruolo, insomma. Ci sono generi che in Italia sembrano non avere spazio, questo è uno di quelli. Eh sì, costano troppo, però soprattutto costano. Ed era Neri Parenti per Vacanze di Natale ai Caraibi al microfono di Chiara Pizzimenti. Si chiude qui la nostra puntata della Rosa Purpurea, e noi però ci risentiamo sabato prossimo, sarà Ferragosto, ma noi non mancheremo mai con una puntata che davvero vi consiglio di non perdere, una puntata straordinaria con tanti ospiti, tanta musica, sarà tutta dedicata al rapporto fra il musical e il cinema e il cinema e il musical, per presentare quello che succederà sui palcoscenici d'Italia e di Broadway della prossima stagione, ma con il cinema sempre sullo sfondo. Non dimenticate, settimana prossima La Rosa Purpurea, come sempre, il sabato e la domenica in replica. Un saluto da Franco D'Assisti.